Gioconda, piccina mia, va a brincare nel mare nel fondo. Ma attenzione quel tubarone, ho visto? Hai capito, mio San Benedito? Piove, piove, a tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire ridere, ridere, ridere di queste infelici qui. Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire ridere, ridere, ridere di queste infelici qui. Ti ricordi, Gioconda, di quella sera in Guarugia, quando il mare ti portava via e mi chiamaste, aiuto Marcello. La tua Gioconda ha paura di quest'onda, di Tito Angelo vuoi, come ha detto Michelangelo. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire ridere, ridere, ridere di queste infelici qui. Ti ricordi, Gioconda, di quella sera in Guarugia, quando il mare ti portava via e mi chiamasti, aiuto Marcello. La tua Gioconda ha paura di quest'onda.